mio bene, mio tesoro, solo amor. Ti sento nel bene, ma c'è un ma, come vorrei sposarti vicino a te. La vita mia passare, ma c'è un ma, non mi piace quella tua famiglia, pazza per la musica, folle per la lirica, con papà che è professor di contrabbasso, mamma suona il flauto, tu suoni il fonografo, e Marcella l'ultima suona il piano elettrico, mentre suo marito il corno in fondo. Ti voglio bene assai, mio tesoro, solo amor. Ti sento nelle vene, ma c'è un ma, c'è un gran ma. Anch'io vorrei sposarti, tambour battant. Ma devo confermarti che c'è un ma, c'è un gran ma. No, non mi piace quella tua famiglia, con il babbo artritico, con la mamma isterica, e un fratello che sta sempre disperato, la sorella stupida, con la zia bisbetica, e un fratello piccolo, scostumato e intrepido, che col mio cappello se ne va. Famiglia, alla qual per regola devo ancora aggiungere pure il pappagallo che mi prende in giro, ah, quel tuo fonografo, ah, il fratello piccolo, ed allora è inutile, presto salutiamoci e non ne parliamo proprio più.